Salito in casa, trovai la nonna più sofferente del solito. Da un po' di tempo, senza sapere bene cosa avesse, si lamentava della sua salute. Solo quando ci ammaliamo ci rendiamo conto di non vivere soli, ma incatenati a un essere di un altro regno, da cui ci separa un abisso che non ci conosce e dal quale è impossibile farci capire. Il nostro corpo. Qualsiasi brigante nel quale ci imbattessimo su una strada, riusciremmo forse a renderlo sensibile al suo interesse personale, se non alla nostra sventura. Ma chiedere pietà al nostro corpo è come pretendere di conversare con una piovra, per la quale le nostre parole non possono avere più senso del rumore dell'acqua e con la quale ci atterrirebbe essere condannati a vivere. I malesseri della nonna sfuggivano spesso alla sua stessa attenzione, sempre concentrata su di noi. Quando diventavano intollerabili, per riuscire a guarirne si sforzava invano di capirli. I fenomeni morbosi di cui era teatro il suo corpo, se rimanevano oscuri e inafferrabili al suo pensiero, erano tuttavia chiari e intelligibili per esseri appartenenti al loro stesso regno fisico, esseri cui l'intelligenza dell'uomo ha finito col rivolgersi per capire quel che le dice il corpo, così come, di fronte alle risposte di uno straniero, si va a cercare qualche suo connazionale che possa fungere da interprete. Loro sì che possono dialogare col nostro corpo, dirci se la sua collera è imperversa o se sta ormai per placarsi. Cottard, che pregato di visitare la nonna, ci aveva irritati chiedendoci con un sorrisetto sagace, non appena gli avevamo detto che era malata. Malata? Non si tratterà, spero, di una malattia diplomatica. Cottard tentò, per calmare lo stato d'agitazione della paziente, il regime latteo. Ma le infinite minestre al latte non sortirono alcun risultato, perché la nonna ci metteva troppo sale, di cui si ignoravano gli inconvenienti. Wydal non aveva ancora fatto a quei tempi le sue scoperte. Infatti, poiché la medicina è un compendio degli errori successivi e contrastanti commessi dai medici, rivolgendoci ai migliori tra loro, è molto probabile che ci troviamo a invocare una verità che pochi anni dopo sarà riconosciuta falsa. Insomma, credere alla medicina sarebbe la suprema tra le follie, se non ce ne fosse una ancora più grave. Quella di non crederci, visto che da quell'inanellarsi di errori è pur scaturita alla lunga qualche verità. Cottard aveva raccomandato che si controllasse la temperatura della nonna, ma andammo a prendere un termometro. Il tubo era, per quasi tutta la sua lunghezza, vuoto di mercurio. Si distingueva a malapena, rannicchiata in fondo alla sua bacinella, la salamandra d'argento. Sembrava morta. Mettemmo la cannuccia di vetro nella bocca della nonna. Non ci fu bisogno di lasciarcela a lungo. Non c'era voluto molto perché la piccola strega traesse il suo oroscopo. La trovammo immobile, appollaiata a mezza altezza della sua torre, decisa a non più muoversi, indicante con esattezza la cifra per cui l'avevamo interpellata e che nessuna riflessione dell'anima di mia nonna su se stessa avrebbe mai saputo fornirle. 38 e 3. Per la prima volta provammo qualche inquietudine. Scuotemmo energicamente il termometro per cancellare il segno fatidico, come se in quel modo potessimo abbassare, con la temperatura indicata, anche la febbre. Ahimè, fu sin troppo chiaro che la piccola sibilla, priva di discernimento, non aveva emesso arbitrariamente il suo responso, giacché l'indomani, quando il termometro fu nuovamente inserito fra le labbra della nonna, quasi subito, come d'un balzo, splendida nella sua certezza, nella sua intuizione d'un fatto per noi invisibile, la piccola profetessa si era fermata allo stesso punto, in un'implacabile immobilità e mostrandoci ancora la stessa cifra, 38 e 3, della sua verga scintillante. Non diceva nient'altro. Avevamo un bel desiderare, volere, pregare. Sorta, sembrava che fosse quello il suo ultimo verbo, il suo monito minaccioso e definitivo. Allora, nel tentativo di costringerla a modificare il suo responso, ricorremmo a un'altra creatura dello stesso regno, solo più potente, una creatura che non si limita a interrogare il corpo, ma è in grado di impartirgli ordini, un febbrifugo della stessa famiglia dell'aspirina, non ancora in uso a quei tempi. Non avevamo fatto scendere il termometro più giù di 37,5, sperando che così non dovesse risalire. Dopo aver fatto prendere alla nonna il febbrifugo, le rimettemmo il termometro. Come un implacabile guardiano cui si mostri l'ordine di un'autorità superiore, presso la quale ci si è valsi d'una raccomandazione, e che trovandolo in regola risponda «D'accordo, non ho nulla da eccepire, se così passate pure», la vigile addetta alla ruota stavolta non si mosse, ma imbronciata sembrava ci chiedesse «A cosa vi servirà? Conoscete il chinino? Mi ordinerà di non muovermi una volta, 10 volte, 20 volte, e poi si stancherà. So com'è fatto, credetemi, non durerà più di tanto, e allora vi ritroverete al punto di partenza». La nonna sperimentò dunque la presenza, dentro di lei, d'una creatura che meglio di lei conosceva il corpo umano. La presenza di un contemporaneo delle razze scomparse, del primo occupante, ben anteriore alla creazione dell'uomo che pensa. Sentì quel millenario alleato che le tastava, forse un po' rudemente, la testa, il cuore, il gomito, riconoscendo i luoghi, organizzando tutto in vista del combattimento preistorico che infatti si svolse subito dopo. In un attimo la febbre, pitone schiacciato, fu sopraffatta dal potente elemento chimico che la nonna avrebbe voluto, attraversando i regni, scavalcando tutti gli animali e vegetali, poter ringraziare. Era commossa da quell'incontro procuratole attraverso tanti secoli con un elemento anteriore persino alla creazione delle piante. Da parte sua, il termometro, come una parca momentaneamente sconfitta da un dio più antico, teneva immobile il suo fuso d'argento. Ahimè, altre creature inferiori, addestrate dall'uomo alla caccia di quella selvaggina misteriosa che egli non sa scovare nel fondo di se stesso, ci riproponevano crudelmente, ogni giorno, un valore di albumina non molto elevato, ma abbastanza stabile da apparire a sua volta in rapporto con uno stato persistente di cui non ci accorgevamo. Bergotta aveva scandalizzato in me l'istinto scrupoloso che mi faceva mettere in subordine la mia intelligenza quando mi aveva parlato del dottor Du Boulbon come d'un medico che non m'avrebbe infastidito, che avrebbe escogitato dei trattamenti, magari bizzarri a prima vista, ma capaci di conformarsi alla singolarità della mia intelligenza. Ma le idee si trasformano dentro di noi, trionfano delle remore per cui dapprima le contrastiamo, nutrendosi di ricche riserve intellettuali che, a nostra insaputa, erano già belle pronte, a loro disposizione. Adesso, come succede ogni volta che le voci sul conto di qualcuno che non conosciamo riescono a destare in noi l'idea di un grande talento, di una specie di genio, in fondo la mia mente io accordavo al dottor Du Boulbon l'illimitata confidenza ispiratici da chi percepisce la verità con occhio più profondo degli altri. Sapevo, certo, che era piuttosto uno specialista delle malattie nervose, quello al quale Charcot, prima di morire, aveva predetto che avrebbe regnato sulla neurologia e la psichiatria. «Ah, non lo so, può darsi benissimo», commentò Françoise, che era presente, e sentiva nominare per la prima volta sia Charcot sia Du Boulbon, ma non per questo si riteneva esentata dal dire «può darsi», i suoi «può darsi», i suoi «forse», i suoi «non so», erano in questi casi esasperanti. Si sarebbe voluto risponderle «è naturale che non lo sappiate, non sapete nemmeno di che si tratta, non ne avete mai sentito parlare, come potete dire se può darsi oppure no?» «In ogni caso, adesso non potete dire di non sapere che Charcot ha detto a Du Boulbon, eccetera, eccetera. Lo sapete perché ve lo abbiamo detto noi, e i vostri forse, i vostri può darsi, sono fuori luogo dal momento che la cosa è sicura». Malgrado questa competenza più specifica in materia cerebrale e nervosa, sapendo che Du Boulbon era un grande medico, un uomo superiore, di un'intelligenza inventiva e profonda, supplicai mia madre di farlo venire, e la speranza che, grazie a un'esatta visione della malattia, egli potesse forse guarire la malata, finì con l'avere la meglio sul timore che, di fronte alla nostra richiesta di un consulto, la nonna si spaventasse. A far decidere la mamma fu il fatto che, inconsciamente incoraggiata da Cottard, la nonna non usciva più e non lasciava quasi più il letto. Invano insisteva a risponderci con le parole della lettera di Madame de Sévigné su Madame de Lafayette. Dicevano che era pazza non voler uscire. A quelle persone così precipitose nel giudicare, io replicavo: Madame de Lafayette non è pazza, e non mi pronunciavo oltre. È stato necessario che morisse per dimostrare che aveva ragione lei, rifiutandosi di uscire. Dupuybon, quando venne, diede torto, se non a Madame de Sévigné, che non gli fu citata, perlomeno alla nonna. Invece di ascoltarla, si mise, posando su di lei i suoi ammirevoli sguardi, nei quali era forse l'illusione di scrutare profondamente la malata, oppure il desiderio di comunicarle tale illusione, che sembrava spontanea, ma doveva essere diventata meccanica, o di non lasciarle scorgere che pensava tutt'altro, o di acquistare potere su di lei, si mise a parlare di Bergotte. «Ah, come vi capisco, signora, è meraviglioso! Avete mille ragioni d'amarlo! Ma quale preferite tra i suoi libri?» «Ah, davvero? Eh sì, forse è proprio il migliore! In ogni caso è il suo romanzo meglio costruito! Claire è una figura incantevole, e fra i personaggi maschili quale vi è più simpatico?» Credetti, sulle prime, che la facesse parlare di letteratura perché annoiato personalmente della medicina, o forse per sfoggiare la sua apertura intellettuale, o magari con lo scopo più terapeutico di dare confidenza alla malata, farle vedere che non era preoccupato, distrarla dal suo stato. Ma poi ho capito che, stimabile soprattutto come alienista e per i suoi studi sul cervello, aveva voluto verificare, con quelle domande, se la memoria della nonna fosse intatta. Come a malincuore, con occhio cupo e fisso, l'interrogò brevemente sulla sua vita. Poi, di colpo, come se avesse intravisto la verità e fosse deciso ad afferrarla a qualsiasi costo, con un gesto introduttivo che sembrava stentare a farsi strada, a districarsi dal groviglio delle ultime esitazioni che egli stesso potesse avere e di tutte le obiezioni che avremmo potuto muovergli, fissando la nonna con uno sguardo lucido, liberamente e come toccando infine terra, sottolineando le parole in un tono dolce e avvincente di cui l'intelligenza modulava ogni inflessione, durante l'intera visita, del resto, la sua voce rimase, come era naturalmente, carezzevole, e sotto le sopracciglia ispide i suoi occhi ironici sprizzavano bontà.